English Bit di Giulia Crivelli. Drop out. Chris Christie and Carly Fiorina drop out. L'Economist sta seguendo con molta attenzione il percorso di avvicinamento alle presidenziali americane di novembre, le primarie nel vero senso della parola. Uno degli approfondimenti di questa settimana è dedicato a due candidati repubblicani, il governatore del New Jersey, Chris Christie, e l'ex amministratore delegato di Hewlett-Packard, Carly Fiorina. Il titolo dell'articolo del settimanale inglese L'Economist si può tradurre con «Christie e Fiorina abbandonano le primarie». La parola che ci interessa è il phrasal verb «to drop out», che significa appunto uscire, andarsene, ed è usato con la preposizione «of». He has dropped out of active politics. Ha lasciato la politica attiva. En passant, vediamo come politica si traduca politics, come se fosse plurale, senza esserlo però. E lo stesso vale per mathematics, matematica, o ethics, etica. Ma torniamo a drop out. A word that has dropped out of the language. Una parola che è uscita dal linguaggio, sottinteso di tutti i giorni. Oltre che per i politici, il verbo viene usato in ambito scolastico. She started university but dropped out after only a year. Iniziò all'università ma abbandonò dopo solo un anno. Oltre che phrasal verb, drop out è anche sostantivo e quindi i college dropouts sono gli studenti che non finiscono l'università. Da sola la parola drop significa goccia, a drop of milk, a drop of blood, ma anche caduta, a drop in prices, a drop in temperature, oppure ancora consegna. Aid agencies are organizing food drop to civilians in the war zone. Le organizzazioni internazionali di aiuti stanno organizzando lanci di cibo nelle zone di guerra. Molti modi di dire legati a drop. Drop me a line when you get here. Mandami un messaggio quando arrivi. She's been dropped out from the team because of injury. È stata esclusa dalla squadra a causa di un infortunio. Let's drop the formalities. Please call me Giulia. Lasciamo da parte le formalità. Chiamami Giulia. I suggest we let the matter drop. Direi di lasciar perdere il discorso. Tra le espressioni divertenti, drop dead. A drop dead gorgeous Hollywood star. Una star di Hollywood bella da far schiattare. Dead, infatti, significa morto.